In quel tempo, oracolo del Signore, si estrarranno dai loro sepolcri le ossa di tutti i re di Giuda e le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti e le ossa dei profeti e le ossa degli abitanti di Gerusalemme, e saranno esposte al sole e alla luna e a tutto l'esercito celeste che hanno prediletto e che hanno servito, ai quali sono andati dietro e che hanno consultato e ai quali si sono prostrati. Non saranno raccolte né saranno seppellite, ma saranno come letame sulla superficie della terra. Allora sarà preferibile la morte alla vita per tutto il resto che sopravvivrà di questa malvagia famiglia in ogni luogo dove li avrò dispersi. Oracolo del Signore degli eserciti. Dunque dirai loro: così dice il Signore, chi cade forse che non si rialza? O chi si svia forse non ritorna? Perché si è sviato questo popolo, Gerusalemme, con una ribellione perpetua? Sono attaccati all'inganno, rifiutano di ritrarsi indietro. Ho prestato attenzione ed ho ascoltato. Non parlano rettamente. Nessuno si pente della sua malvagità dicendo: cosa abbiamo fatto? Ognuno torna alla propria corsa, qual cavallo lanciato alla battaglia. Perfino la cicogna nel cielo conosce i tempi suoi, e la colomba, la rondine e la gru osservano il tempo del loro ritorno. Ma il popolo mio non conosce il giudizio del Signore. Come potete dire: noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi? Certo, ecco, a menzogna l'ha ridotta la penna menzognera degli scribi. Saranno svergognati i saggi, sconcertati e intrappolati. Ecco, la parola del Signore han rigettato. Che cosa è dunque sapienza per loro? Per questo consegnerò le loro donne a stranieri, i loro campi ai conquistatori, perché dal piccolo al grande tutti essi compiono frode. Dal profeta al sacerdote tutti essi praticano la menzogna. Essi curano la ferita del mio popolo alla leggera. Dicono: salute, salute, ma salute non c'è. Arrossiscano perché compiono abominazioni. Di nessuna onta arrossiscono più, né sanno più vergognarsi. Per questo cadranno tra coloro che cadono, saranno prostrati quando io li visiterò. Oracolo del Signore. Vorrei raccogliere il loro raccolto, oracolo del Signore, ma non c'è uva nella vigna e non ci sono fichi sulla ficaia. Anche il fogliame è avvizzito. Ho procurato loro, quindi, chi li calpesti. Perché ce ne stiamo seduti? Radunatevi ed entriamo nelle città fortificate ed ivi saremo distrutti. Tanto il Signore Dio nostro ci vuole distruggere e farci bere acque avvelenate, perché abbiamo peccato contro il Signore. Aspettavamo la salvezza, ma senza profitto. il tempo della guarigione. Ed ecco il terrore. Da Dan si ode lo sbuffare dei suoi cavalli. Per lo strepito dei nitriti dei suoi stalloni trema tutto il paese. Arrivano e divorano il paese e quanto contiene, la città e i suoi abitanti. Sì, eccomi a mandare contro di voi serpenti velenosi, contro i quali non avete incantesimo, sicché vi morderanno. Oracolo del Signore. Senza rimedio cresce il dolore. Dentro di me il mio cuore languisce. Ecco un clamore. È il grido della figlia del mio popolo, da terra di vasta estensione. Forse che il Signore non sta in Sion, ovvero il suo re non è in essa. Perché mi hanno irritato con i loro idoli, con nullità straniere? È passata la mietitura, terminata l'estate, e noi non siamo stati salvati. Per la ferita della figlia del mio popolo son ferito, son costernato. Lo spavento mi afferra. Non c'è più balsamo in Galaad. Non c'è più ivi alcun medico. Perché allora non migliora la ferita della figlia del mio popolo? Chi renderà la mia testa una fonte e i miei occhi una sorgente di lacrime, perché io pianga giorno e notte gli uccisi della figlia del popolo mio?